Prendiamo in esame la conversione di Paolo, sia perché non tutti sanno cos'è successo veramente quel giorno, sia per rispondere a chi sostiene che la Bibbia, così come ci è pervenuta, meno sia il prodotto di mani umane, o sia stata manipolata e modificata al punto che ciò che leggiamo non corrisponde a quanto Dio avrebbe ispirato agli scrittori biblici. Questa posizione mena alla radice l'ispirazione verbale della parola di Dio nella versione da noi oggi posseduta. Vedremo invece che l'ispirazione divina di un testo non implica necessariamente che uno stesso evento descritto anche altrove nella scrittura sia riportato usando i medesimi termini e considerandone lo stesso punto di partenza, ma anzi, come nel caso della cronaca della conversione di Paolo, è possibile narrare un avvenimento arricchendolo di più particolari che non si contraddicono ma si completano. Per prima cosa possiamo dire che Paolo non scrisse mai di suo pugno la propria conversione, ma è stato Luca, nel corso del libro degli Atti, ad aver descritto per 3 volte il fatto riguardante l'apostolo dei Gentili. Una volta narrandole personalmente, le altre 2 volte riportando le parole di Paolo in merito. E per rispondere a chi sostiene che la Bibbia è stata manipolata, occorre anche aggiungere che Luca sarebbe stato molto stupido se da parte sua se si fosse contraddetto. Diamogli almeno il beneficio di non essere uno scemo. Ecco come Luca descrive la conversione di Paolo. Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché, se avesse trovato alcun seguace della via, uomini o donne, gli potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora avvenne che, mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno. E caduto a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Ed egli disse: «Chi sei, Signore?» E il Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungoli». Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» E il Signore: «Alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare». Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma, aperti gli occhi, non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco. E rimase 3 giorni senza vedere, nei quali né mangiò né bevve. Atti 9, 1-9. Il testimonianza della conversione di Saulo, che più tardi sarà chiamato Paolo, offerta da Luca, è molto semplice e decisamente più breve rispetto a testimonianze relative ad altri personaggi, come per esempio di Cornelio. Paolo era uno dei forti oppositori del cristianesimo nascente e lungo il cammino vede una luce. Viene sbalzato da cavallo, ode un voce. Gli uomini che viaggiavano con lui udirono il suono della voce, ma senza vedere nessuno. Per comprendere che cosa è veramente successo, occorre leggere le altre 2 testimonianze esposte da Paolo stesso, perché solo in questo modo è possibile ricostruire gli eventi relativi alla conversione dell'apostolo dei Gentili. Occorre andare quasi alla fine del libro degli Atti, ed esattamente al capitolo 22, quando Paolo in sua difesa fa un discorso davanti al suo popolo. Così leggiamo: «Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia difesa. Nell'udire che parlava loro in lingua ebraica fecero ancor più silenzio. Poi disse: in verità io sono un giudeo, nato in Tarso di Cilicia e allevato in questa città ai piedi di Gamaliele, educato nella rigorosa osservanza della legge dei padri, pieno di zelo di Dio come oggi lo siete voi tutti. Io ho perseguitato fino alla morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne, come mi sono testimoni il sommo sacerdote e tutto il sinedrio, degli anziani, dai quali, avendo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi recavo a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che erano là, perché fossero puniti. Ora avvenne che, mentre io ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, intorno a mezzogiorno, all'improvviso una gran luce dal cielo mi folgorò d'intorno. Ed io caddi a terra e udii una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Io risposi: chi sei, Signore? Egli mi disse: io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Or quelli che erano con me videro sì la luce, e furono spaventati, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi, Signore, che devo fare? Il Signore mi disse, alzati e va a Damasco, là ti sarà annunziato tutto quello che ti è ordinato di fare. Ora, siccome io non vedevo nulla per lo splendore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me, e così entrai a Damasco. Atti 22, 1-11. In questo caso, Paolo conferma di essere caduto a terra dopo essere stato investito da una luce dal cielo, ma testimonia che i suoi accompagnatori non udirono la voce di colui che gli parlava. Invece nella narrazione di Luca è scritto che i compagni di Paolo udirono il suono della voce, per cui sembra esserci una contraddizione. Il senso del discorso, tuttavia, è che gli uomini avevano udito un suono senza capire le parole. Nessuna contraddizione, ma solo una specificazione dei particolari. La seconda testimonianza di Paolo in merito alla sua conversione è data davanti al re Agrippa. In questo caso notiamo dei particolari confermanti l'attendibilità della parola di Dio in nostro possesso, per quanto ovviamente essa sia arrivata a noi con qualche variante ma affatto inficiante la sua ispirazione verbale. Leggiamo al capitolo 26 del libro degli Atti. Io stesso ritenni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che feci in Gerusalemme. Avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi, e, quando erano messi a morte, io davo il mio assenso, e spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinsi a bestemmiare, e, grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. Mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada io vidi una luce dal cielo più splendente del sole, sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro i pungoli». Io dissi, «Chi sei tu, Signore?» Egli disse, «Io sono Gesù, che tu perseguiti». Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora ti mando per aprir loro gli occhi e convertirli, dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione. 26.9-19. Anche in questo caso Paolo parla della sua persecuzione nei confronti dei cristiani, specificando che lungo la strada non solo lui, ma tutti i presenti caddero a terra e che l'interlocutore dal cielo si espresse in lingua ebraica. Unendo dunque tutte queste descrizioni ai loro diversi particolari, possiamo avere un quadro più completo di cosa successe veramente alla conversione di Paolo. Una luce folgorante fece cadere a terra Paolo e tutti gli uomini con lui. Paolo udì una voce in ebraico, afferrandone appieno le parole, mentre gli altri ne udirono solo il suono. Per arrivare a questa conclusione abbiamo dovuto leggere tre descrizioni del racconto della conversione di Paolo, e questo la dice lunga, molto lunga. Chi dice che il testo biblico sia stato appositamente alterato dimostra una certa ignoranza. Per alcuni può essere una conclusione offensiva, ma l'intenzione di dimostrare l'inattendibilità del testo biblico a noi pervenuto, asserendo che gli evangelisti l'abbiano modificato assieme alla tradizione per riformularli con parole proprie, non regge per nulla. Soprattutto quando si pretende di trovare delle contraddizioni nei Vangeli solo perché in uno di essi è scritta una cosa, mentre un altro la tace. Cosa vuol dire? Se Matteo descrive la crocifissione di Gesù e racconta che i ladroni crocifissi con lui lo ingiuriavano, 27.4.4, mentre Luca aggiunge che uno dei due in seguito si pentì, 23.42, è forse una contraddizione? Non è forse ignoranza voler vedere in due racconti descritti diversamente una contraddizione? Perché non vedervi una complementarietà? I racconti della conversione di Paolo lo hanno messo in evidenza. Il fatto che in una descrizione si dica che Paolo è caduto da cavallo, mentre secondo un'altra tutti cadono da cavallo, non è una contraddizione. È semplicemente una narrazione più ricca di particolari. Tutto lì. In merito, posso riportare un episodio. Camminavo verso casa di pomeriggio e ad un tratto si mise a piovere. Un'altra persona, che avesse raccontato della mia passeggiata, poteva dire liberamente che in quel momento il sole dava fastidio ai miei occhi. Ed era vero, perché un sole terso mi batteva con violenza sugli occhi. Com'era possibile che mi bagnassi quando c'era un sole fastidioso sui miei occhi? Il fatto è che una nuvola stava passandomi sulla testa, scaricando acqua, mentre il sole era poco alto sull'orizzonte, e i suoi raggi mi colpivano agli occhi. Se qualcuno leggesse i due resoconti potrebbe dire che erano in contraddizione, mentre si trattava di due verità complementari. Non è una novità che di tanto in tanto qualcuno ritenga il testo originale della Bibbia un mero frutto del pensiero umano. Ma se questo qualcuno avesse tanta obiettività farebbe bene a guardarsi indietro. Innanzitutto i detrattori dell'ispirazione verbale della parola di Dio spesso sono stati svergognati con il passare del tempo. Inoltre, i cristiani credono che la Bibbia contenga alcune imperfezioni o errori, ma si tratta di una lettera sulle 1580 dell'Antico Testamento e non più della millesima parte del Nuovo Testamento. Errori che rimangono sempre marginali e per nulla invalidanti il pensiero di Dio, né il messaggio biblico. Per esempio, Gesù ha parlato di perdizione eterna per coloro che non affidano la loro vita a Lui. E poiché questo è un fatto incontestabile anche dagli increduli, è più importante l'opinione che si ha sulla Bibbia o essere salvati. L'Apostolo Paolo pensava di poter fare e dire tante cose contro il cristianesimo, ma si è arreso a Cristo convertendosi, cioè ha dovuto cambiare opinione. Non conosco una sola persona che, avendo accettato Cristo Gesù come la propria sapienza, possa affermare che le parole da Lui pronunciate siano umane. Una vera conversione produce cambiamenti radicali di mente e di condotta. Un contributo dal libricino, Risposte spinose alle domande spinose degli atei, Edizioni Centro. Biblico, giugno 1993, pag. 27. I due resoconti utilizzano due forme grammaticali diverse del verbo udire, acuo. In Atti 9.7 è usato il genitivo, mentre in Atti 22.9 lo troviamo con l'accusativo. La forma genitiva esprime l'idea generale di un suono che giunge all'orecchio, senza specificare se chi sente riesce a decifrarlo o meno. La forma con l'accusativo, invece, descrive un ascolto che implica la comprensione mentale di quanto sentito. Da ciò vediamo chiaramente che i due brani non sono contraddittori. Atti 22.9 non nega dunque che coloro che erano con Paolo avessero udito certi suoni, dichiara semplicemente che non avevano capito ciò che veniva detto. Il problema è nel riprodurre le sottigliezze grammaticali del greco. Marzo 2009, Ellero,